piena, mi incomincio a camminare, ho visto un posto a riva al mare, la mia giacca a mille toppe, ne ha già prese delle botte, cosa mi può capitare? A me voglio solo riposare, arrivo non c'è più verdura, ma forse chi sarà matura l'anima. Sembra un piccolo paradiso, oh yes, ma forse c'è qualche castigo, e chi lo sa. E ho visto donne tutte nude, vecchie zoccole barbute, libertà. E son costretto a imitare il peccato originale, guarda qua. La mia camicia se ne vola, e resto ferme nella gola l'anima. Questo posto sembra strano, pago dazio per entrare. Tutti amano volare e camminare sopra il mare. Non c'è bisogno di fumare, i nervi sono protesi, verso un attimo di calma. Mamma, tutti vogliono baciare, porgo la guancia sul tuo viso, ancora un piccolo bacino, ecco smack. C'è bisogno di mangiare, né di bere e di pisciare, tutto qua. E ho visto uomini corrotti, vecchi stronzi sconosciuti, libertà. E son costretto a limitare lo sguardo un po' banale, ecco qua. Il pantalone se ne vola e resta un ferme nella gola l'anima. Benvenuti in paradiso, pancia all'aria ed un sorriso, stai qua. Son pronto, devo andare, coi peccati da finire sotto là. Addio, madonne, tutte nude.